We'll be right back.

together. Ci siamo o no? Nel grigio inizio dell'inizio delle cose, la parola della terra alle orecchie del mondo. Era Dio, era uomo, era musica. Ringraziamo il cacciabombardiere. Succede a pochi eletti di avere il privilegio che Gabri Fasano apra la serata. È arrivato l'ospite di questa notte, Jais. E io mi chiedevo, chi c'è in console? Sulle mani, Jais! Grande, grande, grande! C'è Mauro! Mauro! Di Costa! C'è nessuno che batte le mani? Uno, due, sei, nove. Vuol dire di più, di più. Vuol dire Jais. Ricominciare. Jais, devo farti una confidenza. Mauro Picotto è l'ospite preferito del cacciabombardiere. Loro non lo devono sapere. Loro non lo devono sapere. Alza la mano. Picarica, picarica, picarica, picarica. territori, chiamarli d'altrove, non venirne più fuori. È la speciale musica, benvenuti nel sogno. Sulle mani per Mauro Picotto! L'altrove. Dividere. Mauro! Non ti sento. C'è nessuno che grida. Special e tradizione, solo numeri uno. Stasera, la confidenza passa. confidenza al Papa. Gabri, cosa vuoi? Ci siamo già! Entra!

Entertainment. Lo senti, Jais? Ti sta chiamando! Vuole entrare nei tuoi sogni! Ti regala i suoi sogni! Per Mauro Picotto! Non è proibito, si può anche urlare! We'll be right back. Oh, my God.